Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia l'ultima puntata di Focus Economia della settimana. I temi di questa giornata economico-finanziaria, come in parte vi hanno già ricordato i nostri GR, dato di oggi sulla disoccupazione per quello che riguarda l'Italia ma anche gli Stati Uniti. L'Italia purtroppo, dico purtroppo, è una conferma, o meglio c'è un leggerissimo incremento nella disoccupazione, ma è la conferma che siamo ai massimi dal 2004 come livello più basso dell'occupazione, anzi 2001 per l'occupazione, cioè il numero di quanti lavorano tra tutti quelli che potrebbero lavorare è sceso al 56,4%, mentre per quello che riguarda la disoccupazione giovanile siamo ancora ai minimi dal 99, e questo vale anche per la disoccupazione in generale, all'11,2%. Dico ancora perché già il dato più grave si era avuto a dicembre, purtroppo questa è una conferma. Pensate che i disoccupati giovani tra i 15 e i 24 anni sono al 36,6%. Quello che fa impazzire, un lapsus, fa anche impressione, è di quanto siano aumentati i disoccupati nell'ultimo anno in questo paese. 470.000 disoccupati in più, siamo quasi a 500.000 di disoccupati in più in un anno, il che porta il dato complessivo dei disoccupati a 2.875.000. La disoccupazione fotografa chi non riesce a trovare un lavoro tra chi lo sta cercando, l'occupazione invece va a vedere tutti quelli che lavorano tra quelli che potrebbero. Molti, lo spieghiamo spesso, sono due dati diversi, perché negli occupati o nei non occupati rientrano anche quelli che lavorano non lo stanno cercando, casalinghe, studenti, ex studenti, persone che restano a casa, mentre i disoccupati vanno a vedere solo quelli che non riescono a trovarlo tra quelli che effettivamente lo cercano. Ma comunque, giro e rigiro, il dato è sempre quello, ed è un dato brutto. Oggi ne parleremo, ma parleremo soprattutto anche di quello che arriva dall'America, perché anche dall'America arriva un dato sulla disoccupazione non entusiasmante. Poi, come sempre, la vicenda Monte dei Paschi, i rapporti con la fondazione, la procura di Trani che ha sequestrato una quantità obiettivamente risibile, 358.000 euro in una filiale barese, nell'ambito dell'attività di inchiesta sugli strumenti finanziari derivati del tipo interest rate swap, sottoscritti da imprese private operanti nella provincia. E il PM di Trani però ha in corso anche accertamenti per verificare l'operato di alcuni ispettori della Banca d'Italia. Ora ne parleremo, insomma, mi sembra che dopo l'intervento del Presidente della Repubblica oggi sul Sole 24 Ore, intervistato dal direttore Roberto Napoletano, la linea del Quirinale sia chiara: massima stima e difesa della Banca d'Italia, del suo ruolo e del ruolo degli ispettori e dell'attività di vigilanza. Devo dire che da un lato è comprensibile, ci mancherebbe che il Presidente della Repubblica difenda un organismo che comunque gode di un grosso prestigio internazionale come è la Banca d'Italia, dall'altro però lasciateci dire che insomma tutto ha funzionato in queste ispezioni, così ci lascia un po' perplessi: o veramente erano stati bravissimi nell'occultare tutto, o se no forse un allarme poteva essere lanciato anche prima. Comunque, insomma, mi sembra un po' forzato, ecco, dire che insomma, con il buco che stiamo scoprendo, con una banca che molto, molto probabilmente verrà in parte nazionalizzata, cioè il Tesoro dovrà convertire in azioni il suo prestito, perché tanto la banca non ce la farà a ridare i soldi che ha ottenuto in prestito, non a quei tassi e non in queste condizioni di mercato. Beh, insomma, dire che tutto abbia funzionato con gli ispettori della vigilanza lascia e desta qualche perplessità, senza nulla voler togliere il prestigio della Banca d'Italia. Però detto ciò, come va la borsa? La borsa oggi è negativa, meno 0,70%, anche se alcune banche vanno particolarmente bene. Penso alla Popolare di Milano, più 9,20%. Bene, in realtà è soprattutto la Popolare di Milano, perché tra i titoli che vanno bene c'è Ferragamo, più 5,52%. da un lato, e Autogrill più 4,50, ST Microelectronics più 4,15, Todds più 2,30, Impregilo più 1,70, Mediaset più 1,30 come Luxottica, Campari più 1,20 come Finmeccanica. Dicevo, la Popolare di Milano è in controtendenza rispetto alle altre banche perché ci sono indiscrezioni sul fatto che starebbe passando come statuto da banca popolare a società per azioni, che la renderebbe più contendibile. Nelle banche popolari infatti prevale un regolamento che ha varie caratteristiche, il voto capitario una su tutte, cioè ogni testa ha un voto al di là del numero di azioni possedute, e che le rendono difficilmente contendibili. Questo è il motivo per cui il titolo guadagna così tanto. Chi va invece male oggi a Piazza Affari, ancora il Monte dei Paschi, che perde un altro 6,30%. Ancora Saipem, che si mangia il piccolo rimbalzo di ieri, perde un 4% e torna a 20,9 euro per azione. Il Monte dei Paschi nel frattempo vale 24 centesimi di euro per azione. Va anche male Intesa San Paolo e Unicredit, meno 2,90 Intesa, meno 2,5 Unicredit, A2A meno 2,40, Enel meno 2,20, Enel Green Power meno 1,60, Popolare Emilia Romagna meno 1,40, Ubibank meno 1,1. Non risente del nuovo calo della Saipem invece la controllante Eni, che cede solo lo 0,30%. Questi temi, 349-238-6666 per i vostri sms, e poi la pagina di Focus Economia su Facebook, sempre per comunicare con il programma. Quello che riguarda i mercati, oro e petrolio, è qualche giorno che non li raccontiamo. Oro in calo in Asia, $1,660 al barile, all'oncia. Petrolio a New York stabile a $97,45 al barile. Parleremo tra poco del dato sulla disoccupazione americana. Però va anche segnalato che dall'America arrivano dati continuamente in chiaroscuro. Per esempio il Dow Jones è a 14.000 punti, e cioè è tornato al livello che non vedeva dallo scoppio della crisi. L'indice principale di Wall Street non lo vedeva, per la precisione, dall'ottobre del 2007, quindi quasi un anno prima del crack di Lehman Brothers e dello scoppio vero e proprio della crisi finanziaria. Spread italiano stabile, quanto costa noi pagare, indebitarci, pagare per trovare creditori rispetto a quanto non costi la Germania, è ferma ad una differenza di 268 punti. Dall'Olanda arriva una notizia che, voglio dire, fa il paio con altre notizie che delle volte abbiamo sottovalutato, cioè gli stati, in particolar modo Germania, Gran Bretagna e anche Francia, sono intervenuti in questi anni per salvare le loro banche. Lo dico non per giustificare l'intervento sul Monte dei Paschi, ma perché è vero che comunque l'Italia un intervento così non l'ha mai fatto. Vediamo se dovrà farlo adesso. Non vi sarebbe nulla di scandaloso dal punto di vista dell'operazione. Cifre ben più ingenti sono state sganciate dai tedeschi e dai francesi. Certo, questo non cambia nulla al giudizio sugli ex vertici del Monte dei Paschi, sui rapporti con la politica, sui rapporti con la fondazione e anche sul ruolo dell'autorità di vigilanza, mi dispiace dirlo. Comunque il governo olandese ha nazionalizzato il gruppo bancario assicurativo in estrema difficoltà SNS Real a un costo di 3 miliardi e 700 milioni di euro. È la quarta banca del paese. Il limite per trovare una soluzione per salvarla era scaduto e il governo olandese va e interviene, se la compra e la nazionalizza. Nel frattempo il colosso bancario francese Crédit Agricole ha operato svalutazioni, quindi ha detto sostanzialmente che alcuni investimenti valgono meno di quanto precedentemente riportato nel bilancio, per 3 miliardi e 800 milioni di euro, elementi negativi non ricorrenti, li chiamo. Sulla vicenda Monte dei Paschi, il presidente del Consiglio uscente Mario Monti ha detto: sono assolutamente d'accordo con il presidente Napolitano, che appunto aveva difeso l'operato della Banca d'Italia, E il presidente della Repubblica Napolitano ha anche detto, ha invitato la stampa a guardare al richiamo piuttosto brusco della Procura della Repubblica di Siena di fronte alla pubblicazione di notizie totalmente infondate. E la Procura della Repubblica di Siena ha anche ventilato provvedimenti per aggiotaggio e insider trading. Allora, la stampa, a mio avviso, ha, ci mancherebbe il dovere di controllare quello che pubblica. In questo periodo tante cose sono uscite, alcune indiscrezioni si sono rivelate non corrette, come avviene in questi casi. Penso per esempio al congelamento di oltre 1 miliardo di beni da parte della procura e quant'altro. Ma fatemi dire una cosa: adesso che la procura di Siena apra 20 provvedimenti di aggiotaggio in insider trading con la stampa, adesso vogliamo dire che è colpa della stampa la situazione del Monte dei Paschi, c'è cioè anche la procura di Siena, va là, su. Nulla toccando quello che deve essere il rigore dei miei colleghi e del sottoscritto, però tutta questa attenzione verso le notizie che stanno uscendo, dopo che per anni non è uscita una notizia, forse era il caso che uscisse anche dalla procura, anche dagli ispettori della Banca d'Italia, anche dalla Consob, adesso improvvisamente chi crea problemi al Monte dei Paschi sono i giornalisti. A me sembra che siano stati Baldassarri, Vigni, Mussari e compagnia. La Consob nel frattempo andiamo con ordine. La Procura di Roma ha ricevuto la documentazione da parte della Banca d'Italia e della Consob nell'ambito del fascicolo aperto sulla vicenda del Monte dei Paschi per manipolazione del mercato. Nel frattempo la Consob ha convocato Ernst & Young in qualità di nuovi revisori del Monte dei Paschi dopo aver già ascoltato i revisori contabili precedenti, quindi KPMG. L'amministratore delegato del gruppo senese Fabrizio Viola, in un messaggio su Facebook, ha detto: la banca è solida, continua a lavorare come sempre. Non sempre è facile e possibile verificare l'attendibilità delle notizie finanziarie di cronaca che riguardano il Monte dei Paschi di Siena. E poi il presidente della Fondazione Monte dei Paschi, Gabriello Mancini, il quale ha detto: tutto sotto controllo in fondazione. Vabbè. Il silenzio è stato apprezzato, riferendosi al fatto di non aver commentato negli ultimi giorni le vicende relative alla banca. Se lo dice da solo. No, noi invece avremmo voluto, caro Mancini, avere qualche dichiarazione in più da lei, capire cosa è successo, quali erano i rapporti in questi anni tra lei e Mussari, tra la fondazione che è tuttora la maggioranza e il Monte dei Paschi, se è d'accordo con la critica di chi dice che proprio il voler mantenere la senesità della banca è stata l'origine di molti mali, che ha impedito al Monte dei Paschi di fare alleanze alla pari con gruppi bancari dello stesso livello, se la fondazione non abbia avuto un ruolo troppo pesante, anche condizionata da esponenti politici. Cioè, questo avremmo voluto sentirla parlare. Io, per esempio, non ho apprezzato il suo silenzio. Ci racconti finalmente come sono andate le cose in questi anni, la versione di Mancini. L'ha raggiunto comunque nostra Raffaella Calandra a margine della presentazione di un'attività culturale dell'Accademia Musicale Chigiana a Siena. E siamo grati appunto al dottor Farinelli per questo atto generoso nei nostri confronti, che è un riconoscimento anche all'attività della Chigiana. Il momento non sono dei più facili, però l'obiettivo è quello di continuare, pur rivedendo un po' l'attività, riducendola magari da un punto di vista numerico, ma non da un punto di vista qualitativo. Questa è la scelta che abbiamo fatto nel momento in cui le risorse sono diminuite. Questo ci impegna ancora di più a far di tutto perché, proprio per ricambiare questa fiducia, cercando di portare a compimento quelli che sono i nostri compiti, la nostra missione, e quindi di far lavorare al meglio la Chigiana perché svolga un ruolo culturale ma anche di promozione da un punto di vista economico per questa città e per questo territorio. Che comunque attraverso, diciamo, anche iniziative come quelle di oggi, tipo culturale alto, diciamo, forse è la strada che la Fondazione spera e confida di intraprendere anche per venire fuori da un momento che è tutt'altro che facile, anzi. Sì, noi stiamo, l'abbiamo detto nel documento, stiamo cercando tutte le strade e tutti i mezzi di finanziamento proprio per potenziare quella che è l'attività in un momento abbastanza difficile. E qui c'è stato poi un rebus perché Mancini ha detto stiamo cercando di riprendere i mezzi di risorse per la fondazione, c'era stato un qui pro quo, poi la stessa fondazione ha chiarito che si riferiva ai mezzi per la Fondazione Accademia Musicale Chigiana, che è sicuramente importante, detto questo, cioè a me ricordo un po', non lo posso mandare in onda anche oggi, Johnny Stecchino sul traffico a Palermo, se questo è il problema, se è il problema di Siena in questo momento la Fondazione Accademia Musicale Chigiana, vabbè dai. Però dico, noi quando vuole, presidente della Fondazione Monte dei Paschi, i microfoni sono aperti, ci racconti i rapporti, quali dovrebbero essere i rapporti corretti, il ruolo della Fondazione, siamo tutti pronti ad ascoltarlo. Mi rendo conto che ieri lo ha interrogato il procuratore della Repubblica di Siena, per cui cioè, avrà parlato, insomma, immagino, però insomma, anche noi siamo a disposizione. Allora, prima di arrivare alla disoccupazione, ancora due notizie. Una che riguarda, vabbè, Maradona, l'avete sentito, l'Agenzia delle Entrate ha escluso e smentito che fosse stato annullato il debito del giocatore nei confronti del fisco. 40 milioni di euro, ha detto tra l'altro l'Agenzia delle Entrate, che valuterà di avviare azioni legali anche in sede civile a tutela della propria immagine. Nel frattempo addio alla Newco di Pomigliano per quello che riguarda la Fiat, il personale e l'attività di Fabbrica Italia Pomigliano verranno infatti trasferiti in Fiat Group Automobiles, lo ha annunciato lo stesso Lingotto con una lettera ai sindacati. Bene il dato delle vendite di Chrysler, quindi Fiat Chrysler in America, più 16% anche a gennaio, è il miglior gennaio per la Chrysler negli ultimi 5 anni. Oggi dovrebbero uscire i dati anche sulle immatricolazioni in Italia. In Spagna sono già usciti, il calo è meno 9,6% rispetto al gennaio del 2012. Un'ultima notizia minore per quello che riguarda invece il mondo delle auto: la casa automobilistica cinese Geely ha acquisito per circa 13 milioni di euro chi costruisce i celebri taxi londinesi, Black Cabs, i taxi neri, e quindi già possedeva il 20%, adesso ha il 100%. Dicevo, prima di arrivare ai dati sulla disoccupazione, purtroppo dobbiamo tornare e la mettiamo vicini apposta, perché abbiamo avuto 500.000 di disoccupati in più in un anno, ma scopriamo che nel frattempo in realtà queste spese non sono relative al 2012 e basta, ma che insomma quando si va a guardare nel caso specifico la regione Lombardia come sono stati utilizzati i soldi di rimborsi per la politica, per le spese elettorali, per fare campagna, per mantenere i gruppi consiliari, altro che la Nutella di ieri. Molti hanno evocato un'altra cosa che assomiglia vagamente alla Nutella, ma solo come colore. Cioè, oggi c'è dell'altro. Abbassare, buttare anche più. La sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, i buffoni di corte, ladri di polli, super pensioni, drag e più, ladri di Stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati, drag e più, auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, Allora, di nuovo i consiglieri dell'opposizione, perché mancavano loro ad essere indagati nel Consiglio regionale della Lombardia, mo' pure loro lo sono. Ieri abbiamo raccontato di tutto. Faccio subito una premessa. Allora, ci sono delle spese che, per carità, un consigliere può sostenere per la sua attività di consigliere politico. Per cui quando io leggo che sono state pagati soldi per la stampante e per i computer, va bene, insomma, se non ce l'avevi ci mancherebbe. Il problema è che dentro ci sono anche cose che, al di là del danno economico, a mio avviso in primo luogo sono un'umiliazione morale. Cioè caricare i 2,50 euro della Nutella, sei veramente un barbone, ma abbiate pazienza, sei un barbone. Allora vi faccio un esempio. Il capogruppo dell'Italia dei Valori Stefano Zamponi tra i rimborsi mette anche uno scontrino da qui a 14,60 euro per il libro di Travaglio e Peter Gomez, Se li conosci li eviti. Mi ricordo molto quello che fece la Minetti, che anche lei caricò 15 euro per il libro Mignotocrazia. Cioè, sono due casi in cui capogruppo in un caso e la Minetti in un altro, diciamo, cercano quasi un'autobiografia, perché se li conosci li eviti. Allora, poi carica 5 PC, anche qui il PC ti può servire, il computer ci mancherebbe, ma 5 computer, 4 stampanti, non c'era nulla in regione, immagino, negli uffici della regione. E se anche li hai comprati per casa tua, 5 PC, magari neanche War Games, una roba del genere. 3 lettori DVD, 3. Poi uno per camera, non so, chiedo. Poi cocktail, pranzi, cene, 400 euro spesi per 40 necrologi. Ora, uno spera di non essere troppo amico di Zamponi a sto punto, però. 15 kit di penne Balenciaga. 150 confezioni di orologi con igrometro. Per misurare, immagino, l'umidità presente, non dico dove in questo momento, 500 euro. E poi ancora il capogruppo del PD, Luca Gaffuri, ha messo in nota spese piadine, birre e la cena per 50 persone. Conto da 1.300 euro all'agriturismo Le Bertoline. La collega sempre del PD, Sara Valmaggi, deve spiegare ai PM come ha speso 700 euro che le sono stati contestati. Ha spiegato di aver pagato 75 euro per una notte in hotel a Mantova per partecipare a un incontro del PD locale, e va bene. E poi 600 euro per 30 francobolli con cui ha spedito gli atti del convegno. Ma ancora che francobolli, 600 euro per 300 francobolli, e chi li ha incollati? Poi il capogruppo dell'UDC, Gianmarco Quadrini, 400 euro per una festa sulla neve a Sestola, sull'Appennino Emiliano, che non mi pare faccia parte della regione Lombardia. 1.600 euro di prodotti alimentari comprati al monastero di Valle Chiara, anche questi immagino faccia parte dell'attività politica. 800 euro per spumante Franciacorta. Poi ha caricato pure la spesa alla Coop per acqua, patatine, tovaglioli, carta igienica. 1.772 euro di pesce. Ma dico, pure la spesa alla Coop. Poi ha messo anche una parcella, sempre Quadrini, da 624 euro per il suo avvocato. Ora, uno mi deve spiegare, ce lo spiegherà immagino, come mai uno paga l'avvocato con i soldi destinati dai contribuenti ai rappresentanti politici per la loro attività politica. Se è avanti così si capisce, però. La quota annuale per la Compagnia delle Opere di Brescia, quindi CL, ma almeno quella non te la potevi pagare 60 euro, no? I ticket di Area C, il weekend alle Terme di Chianciano, uno a Todi, un conto da 500 euro in un relais Chateau, fondamentale per l'attività politica. No. E poi Dionigi Giundani ha caricato anche i pastelli della Giotto e il tappeto dell'Ikea. Ma i pastelli della Giotto li usa tuo figlio, li usa suo figlio, abbia pazienza. Ma chi è che usa i pastelli della Giotto per fare il consigliere? E a quando il temperamatite, Hello Kitty, l'astuccio? No, chiedo, perché ce lo aspettiamo. 1.500 euro per 62 penne del sempre consigliere dell'UDC, però questa volta è Valerio Bettoni, che ha presentato anche, io qui da questo punto di vista, cioè, non ci sto più dentro, Bettoni ha presentato anche una ricevuta dal Brico Center per un euro per i feltrini da mettere sotto le sedie. Perché la poltrona, prima di tutto, la carega, prima di tutto, se la carega cigola, ci si accorge che uno non vuole spostarsi. Dai, Bettoni è il nostro nuovo mito. Un applauso a Bettoni, vai. Un euro per i feltrini sotto le sedie. E poi le consulenze d'oro di Formigoni. Perché qua, insomma, si scopre che... lo scrive il presidente del comitato dei controlli, Ettore Paganelli, che la giunta Formigoni dal 2009 al 2011 ha speso in consulenze 55 milioni di euro, nonostante tutti i dipendenti della regione Lombardia. Sapete quant'è? È il doppio di quanto spende la regione Lombardia per la sicurezza urbana e la polizia locale, che mi sembrano temi un po' più delicati, no? Visto che la sicurezza, ed è la metà di quanto spende per la protezione civile, che è un'altra cosa serissima in una regione, come tutte le regioni, ma nella regione Lombardia. Allora, dice lo stesso presidente del comitato di controlli, in molti casi le ricadute di queste consulenze sono limitate oppure sono definite in termini così generici, tipo stimolo alla riflessione, ma con i disoccupati che abbiamo lo stimolo alla riflessione arriverà in un altro modo, fra un po', arricchimento metodologico, oppure ancora realizzazione di attività iniziate, vabbè. Pensate che poi c'è una cosa strana, perché tutte le volte che bisogna fare una consulenza su ambiente, energia, reti e sanità, i soldi, la maggior parte, il 40% dei soldi va alla società Eupolis Lombardia, che è vicina a CL, ha 70 dipendenti, e poi insomma le maggiori tensioni tariffarie che hanno permesso, secondo i PM, di garantire più di 200 milioni alla clinica Maugeri in cambio di viaggi e altri benefit offerti dal consulente alla fondazione Maugeri per Angelo Daccò e dal socio Antonio Simone. E poi l'ultimo chicca ve la do, perché c'è anche la Finlombarda, che allora la Finlombarda gestione SGR perde 850.000 euro, va bene? Però ciononostante ha trovato i soldi per affidare una consulenza da 110.000 euro sull'housing sociale a Carlo Masseroli, ex assessore Cellino della Giunta Moratti. Cioè abbiamo quinto potere? Oggi ci vuole, così chiudiamo in bellezza. Se mi date quinto potere e poi andiamo coi topi morti. Voglio che vi alziate proprio adesso e andiate alla finestra e l'apriate e vi affacciate tutti ed urliate: sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più! Ok, adesso mi calmo e parliamo di cose serie. Purtroppo sono serissime queste cose, ma parliamo di cose serie. Parliamo dei dati sulla disoccupazione italiana, che già ricordavo, ma anche di quello che succede negli Stati Uniti. Vi do le notizie, poi andiamo sul meteo e la pubblicità e poi l'analisi dopo appunto il meteo e la pubblicità. Non c'è infatti solo il dato sulla disoccupazione italiana a preoccupare molto, l'11,2%, siamo ancora ai massimi dal 99, il dato riferito a dicembre, come purtroppo c'è da attendersi, cambia pochissimo, anzi non cambia proprio, peggiora leggerissimamente rispetto a novembre. 11,2%, in rialzo dello 0,1% e di quasi 2 punti su base annua, massimi dal gennaio 2004 per quello che riguarda il dato, ma su quello che spaventa soprattutto è il numero di disoccupati giovani. 36,6%, siamo a più di un terzo tra chi ha dai 15 ai 24 anni. Voi direte, alcuni lo scrivono, ma di solito in quell'età uno studia o non lavora, sì, ho capito, però un anno fa nella stessa fascia tra i 15 e i 24 c'erano il 5% di disoccupati in meno. E i ragazzi tra i 15 e i 24 anni che cercano un lavoro, che dichiarano di cercare un lavoro, sono comunque 606.000 disoccupati. E ancora, in un anno, quasi 500.000 di disoccupati in più. Ora, l'economia si è fermata, quello che volete, ma se qualcuno deve ancora avere una dimostrazione che quello che è stato fatto nell'ultimo anno, andando a seguire in maniera pedissequa la Germania e il suo rigore, ieri la Germania ha avuto il dato di disoccupazione più basso da anni, perché qualcuno festeggia e brinda a Berlino, è a Roma, è a Madrid che si piange. Ecco, se qualcuno ha bisogno di una dimostrazione per capire che forse abbiamo imboccato la strada sbagliata, che non ne stiamo uscendo e che ci stiamo avvitando, beh, questo dato se lo legga con attenzione e poi mi dica se con rigore non si arriva diretti a rigor mortis. Oggi non ce la faccio più, come dice Rino Gaetano, andiamo meteo, pubblicità. La borsa ha chiuso con un meno 0,69%, bene invece Parigi più 1,1, Francoforte più 0,70, Londra più 1,20, l'America più 1%, e poi parliamo anche di quello che sta capitando negli Stati Uniti. Non c'è infatti solo la disoccupazione in Italia. Oggi, a sorpresa, la disoccupazione in America è salita al 7,9%. Voi direte poca roba rispetto all'11 e passa che stavamo commentando in Italia. Sì, è vero, però c'è dell'altro. Perché la frenata è stata più brusca del previsto. A dicembre c'erano stati 200.000 posti di lavoro nuovi. Gli analisti si aspettavano per gennaio altri 180.000 con un calo della disoccupazione al 7,7%. E in questo inizio 2013 i posti di lavoro persi sono stati più di quelli creati. È la prima volta che la disoccupazione sale in America da ottobre, e questo nonostante poi oggi l'indice che misura l'andamento del settore manifatturiero sia salito a gennaio, e soprattutto Wall Street, con l'indice principale che è il Dow Jones, abbia superato per la prima volta dall'ottobre del 2007 i 14.000 punti, il livello dei 14.000 punti. Certo, ieri il Senato americano ha approvato la sospensione temporanea del tetto al debito pubblico, quindi fino al 19 maggio gli Stati Uniti evitano il rischio di non essere in grado di onorare i propri impegni finanziari. Però non consente questa approvazione l'innalzamento del tetto al debito pubblico, che è fissato per legge in America a 16.400 miliardi di dollari, quota già raggiunta lo scorso dicembre. Professor Alberto Bisini, in collegamento con noi dalla New York University, dove insegna economia. Buonasera. Buonasera, buonasera. Allora, professore, mi faccia fare l'avvocato del diavolo. Ho chiuso la prima parte dicendo, sì, insomma, i dati sulla disoccupazione italiana rispetto a quelli tedeschi, che vedono la disoccupazione ai minimi da anni, dimostrano che tutto il rigore ce lo siamo scaricati noi, e che queste politiche solo di rigore, tagli e tasse, senza nessun tipo di iniezione per l'economia, ci stanno portando a un avvitamento. Però potrei dire, se fossi un difensore della Merkel, beh, vedete, in America continuano a stampare moneta, hanno avuto un atteggiamento molto molto molto favorevole all'economia, pieno di iniezioni, e la disoccupazione è di nuovo salita a gennaio. No, allora, no, non siamo d'accordo. Ecco, no, mi dica perché. Certo. Quasi nulla. Mi dica perché. Non siamo d'accordo su nulla per questo, sì, ci mancherebbe. Perché innanzitutto la Germania ha i minimi di disoccupazione non perché ha buttato a noi il rigore o nulla di simile, ma perché semplicemente perché è un'economia molto produttiva. Sono anni che lavorano a aumentare la produttività dell'economia e ci sono riusciti e producono e vanno. Noi siamo un'economia estremamente improduttiva e non produciamo niente. E perché abbiamo ancora alto, non produciamo niente ovviamente sbagliato, ma abbiamo ancora un alto livello di disoccupazione. Questo non ha nulla a che vedere, o poco a che vedere, né con la politica fiscale e nemmeno con quella monetaria. Invece negli Stati Uniti, mi scusi, io sento molto male. Sì, anche noi adesso magari dopo il traffico la riprendiamo, vorrei farle finire il ragionamento però. Sì, mentre negli Stati Uniti la questione è diversa, cioè nel senso che questo comunque è un piccolissimo cambiamento, cioè diciamo è una stima con 0,2% di differenza rispetto a quello che ci si aspettava, è nell'ordine delle cose, queste cose succedono ogni volta, cioè fuori discussione che ci sia un'uscita dalla recessione molto lenta degli Stati Uniti, ma c'è da tempo e non sono questi 0,2% che cambiano nulla, direi. Ecco, allora vorrei capire, dopo il traffico, così vediamo di chiedo scusa per la qualità tecnica dell'audio, vorrei capire se il fatto che le dica va bene, è peggiorata rispetto alle attese, però l'America sta uscendo dalla recessione, a che cosa imputa lei questa uscita dalla recessione? Perché il deficit americano è schizzato a livelli mai visti prima, il dollaro viene tenuto basso stampando moneta. Allora vorrei capire, sono questi gli elementi che hanno permesso all'America di uscire dalla recessione, e sono questi per converso gli elementi che non permettono a una parte dell'Europa, dell'area euro, di uscire dalla recessione, ma anzi la aggravano? Allora, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisone, alle 17:47 minuti. Professor Bisin, quali i meriti? Adesso la sentiamo molto meglio, grazie. Quali i meriti, gli elementi che hanno portato gli Stati Uniti, come le diceva, a uscire dalla recessione, e se sono gli stessi elementi che non visto che noi non li abbiamo applicati, che fanno sì che l'Europa farà un altro 2013 l'area euro molto molto deludente, in buona parte in recessione. No, io non credo. Credo che la politica monetaria negli Stati Uniti, tutto sommato, almeno fino ad ora, ha fatto bene, nel senso che ha alleggerito molto. Questo non è successo in Europa perché non poteva succedere, ma negli Stati Uniti ha fatto bene, ha alleggerito, cioè il paese è pieno di liquidità e le banche hanno ricominciato più o meno a fare prestiti. Io credo che la politica fiscale ovviamente ha in qualche modo per un certo periodo limitato la disoccupazione. Oggi ovviamente ne sentiamo le conseguenze, sia perché il pubblico, una grossa parte di questa mancanza di posti di lavoro che si è osservato questo mese è il pubblico che ha smesso di assumere, anzi ha licenziato, ma soprattutto è, diciamo, l'incertezza fiscale, è il problema che non si sa chi pagherà il conto, dove, quando, perché, questo naturalmente blocca l'attività produttiva. Quindi io credo che in realtà la lentezza dell'uscita degli Stati Uniti sia in grossa parte dovuta al fatto che l'intervento fiscale è stato troppo grosso e come dire, abbastanza mal strutturato. Quindi non credo che quello aiuti, però diciamo, la posizione dell'Europa è completamente diversa, perché per quanto giustamente lei dice che il debito pubblico è schizzato negli Stati Uniti, è vero, il debito pubblico è schizzato, ma non c'è mai stata una crisi del debito, nel senso che gli investitori hanno continuato a comprarlo. In Europa non lo hanno fatto, e quando queste cose succedono bisogna reagire. Non lo hanno fatto per tante ragioni che possiamo discutere, ma insomma, quindi evidentemente in Europa il debito pubblico, nonostante le percentuali siano lo stesse, preoccupa molto più gli investitori di quello negli Stati Uniti, e quindi la strategia, comunque io credo che non fosse la strategia giusta, ma la strategia di fare politica fiscale espansiva in Europa non si poteva fare. Ecco, però allora, per concludere, professor Bisin, ho capito il suo ragionamento. Sì. Tra l'altro specifico che quando si dice politiche fiscali negli Stati Uniti si intendono le politiche di bilancio, deficit e debito, non solo le politiche di tasse come sarebbe in italiano. No, sennò, si crea. Però allora, io oggi, prima ho detto, non ho niente da commentare su questi dati sulla disoccupazione, sono identici a quelli di novembre, e tanto finché non cambiano le cose andremo ad avere sempre nuovi record. Sono troppo rassegnato? Cioè, dobbiamo rassegnarci per il prossimo anno, che tanto finché l'economia non riparte non vi sarà una, e ripartirà per un ciclo esterno, cioè non possiamo farci nulla, quindi li archiviamo come semplicemente un aggiornamento di quanti nuovi disoccupati in più, perché 500.000 di disoccupati in più in Italia in un anno non è poca cosa, eh? No, è tantissimo, è tantissimo. Io credo che, non so da cosa dipende la sua rassegnazione, io sono rassegnato tanto quanto, ma credo che sia, nel mio caso almeno, è perché vedo, come dire, una campagna elettorale basata su politiche suicide, che per sono esempio? Quelle di sempre, cioè da una parte quelli più ragionevoli, tipo Monti, secondo me, tasse ad ogni angolo, gli altri ancora peggio, per cui o tagli di tasse non coperti, o strane espansioni di bilancio, o altre tasse via patrimoniale. Io trovo che qui, appunto, questo tipo di politiche siano assolutamente fallimentari e suicide in generale. C'è bisogno di un taglio delle tasse, di un taglio della spesa pubblica simultaneamente, e di vendita di asset per tagliare il debito. Queste tre cose simultaneamente, secondo me, potrebbero dare un minimo di speranza. Però, cioè, tagliare le tasse, ridurre le tasse, ridurre la spesa pubblica e collocare, per fare un po' di cassa, un po' di patrimonio dello Stato? Sì. Ma lei lo sa che questo è il programma di Oscar Giannino? Lo so, ho contribuito un pochino a scriverlo, non lo sapevo io che lei avesse contribuito. No, sì, lo dico, sì, perché assolutamente, però purtroppo Oscar Giannino per ora sono in tre, insomma. Sono in tre, no, beh, adesso non esageriamo. Adesso lo inviteremo perché dobbiamo riequilibrare la par condicio, che qua parliamo solo di PD, PDL, Monti e quant'altro, quindi con tutto l'accumulo che ha vantato. No, lo dico per correttezza, cioè agire in parallelo con un taglio delle tasse e un taglio della spesa pubblica, per tenere in ordine i conti, cedere un po' di patrimonio pubblico, lo dico per correttezza, è la linea del movimento Fare per fermare il declino, che posso tranquillamente citare, perché siccome non lo cita quasi mai nessuno, ha ampi riserve per... Non credo che l'abbia fatto, volevo farlo io, non mi sembrava corretto, ma no, si preoccupi, sono contento che l'abbia fatto. Non ho nessun problema. Grazie al professor Alberto Bisini, collegamento da New York, dove insegna appunto alla New York University. E quindi qualche soluzione c'è. Adesso noi ci spostiamo invece su altri temi. Impazziti per questa base, volete sapere perché mettiamo questo stacco musicale? Mamma mia. Io vi do il titolo, si chiama Rise Your Weapon, solleva la tua arma, poi ognuno ci faccia una riflessione. Sempre topo morto. Livia Zancaner, buonasera. Buonasera. Radio Accordi sulle 24 ore, la conoscevi questa, no? Sì, l'ho sentita qualche volta. Perché la sera ti vai a divertire, vabbè Livia. Allora, la borsa in questo momento, no, cerco un po' di rassegnare perché oggi tra le note spese da un euro a 2000 euro della regione Lombardia e il dato sulla disoccupazione, e poi dobbiamo parlare del Monte dei Paschi, del rapporto con la Fondazione Monte dei Paschi, Mancini che dice io, tutti hanno apprezzato che io sia stato zitto, no, Presidente Mancini, io non l'ho apprezzato, abbia pazienza, io avrei voluto sapere di più sul rapporto della Fondazione e Monte dei Paschi. Comunque, oggi partiamo dal Monte dei Paschi, che ha perso il 5,92%, male però anche Unicredit meno 2,60% e Intesa San Paolo meno 2,90%. Il fronte opposto è rappresentato da un'altra banca, la Popolare di Milano guadagna quasi il 10%, il 9,60%. Sì, allora devo fare una premessa sul comparto bancario, nel senso che le banche sono andate molto male sia a Milano sia a Madrid e per questo Milano e Madrid sono state gli unici listini a terminare in netto ribasso, mentre le altre borse europee hanno segnato rialzi intorno all'1%, quindi MPS è stata la peggiore del FTSE MIB, ha perso come dicevi tu oltre il 6%, BPM ha invece chiuso in controtendenza premiata dalle ipotesi su una trasformazione della banca da banca popolare a società per azioni. Infatti indiscrezioni oggi hanno riportato che il presidente Bonomi martedì ha presentato il progetto di trasformazione in SPA ai sindacati nazionali, che però avrebbero preso tempo fino a dopo le elezioni. Comunque il mercato scommette quindi sulla trasformazione in SPA, ma soprattutto scommette sul fatto che la trasformazione della società possa portare all'integrazione della banca, quindi di BPM, in un gruppo bancario di maggiori dimensioni, e il titolo quindi ne ha beneficiato in borsa. Beh sì, perché se viene meno la versione popolare, che ha tanti vincoli, la quota che massima che ogni socio può possedere, il fatto che vi sia il voto capitario, cioè ogni testa vota per uno, al di là di quante azioni tu hai, la banca diventa più contendibile e più aggregabile in questo periodo. Invece, per quello che riguarda altri titoli negativi, c'è Saipem, di nuovo, oggi Saipem si è mangiata al recupero di ieri, alla fine, meno 3,90%. Sì, oggi Saipem è tornata quindi a perdere terreno dopo un lieve recupero di ieri e la caduta di oltre 34% di mercoledì in scia all'allarme sugli utili. E ricordiamo che la Consob lunedì prossimo incontrerà i vertici della società proprio per fare chiarezza sul taglio delle stime sugli utili e soprattutto sul collocamento del 2,3% del capitale di Saipem realizzato da Bank of America Merrill Lynch proprio prima dell'annuncio dell'allarme sugli utili e quindi prima del crollo del titolo. Quindi diciamo che gli occhi del mercato, oltre che sulle banche, sono puntati anche sulla società Saipem. Qualche titolo buono però oltre alla Popolare di Milano oggi c'è in borsa, si chiama Ferragamo più 5,60, Autogrill più 4,60, ST Microelectronics più 4%, Tods più 2,30, Impregilo più 1,80. E 6 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso arriviamo di nuovo alla vicenda Monte dei Paschi, oggi in particolar modo il ruolo delle fondazioni, della Fondazione Monte dei Paschi. Dopo le parole di oggi del presidente Mancini, che ha detto tutti hanno apprezzato il mio silenzio, io no, ripeto, noi no, tutti tranne uno, non lo so. Ah boh, Livia Zancaner, chiudiamo sulla borsa invece, perché dicevo che al di là di BPM e delle ipotesi che diventi un SPA e non più una popolare, e non resti più una popolare. Bene, sono andati Ferragamo più 5,60, Autogrill più 4,60, Steam Microelectronics più 4, Todds più 2,30. Sì, allora, Ferragamo è andata bene così come tutto il settore del lusso, quindi anche come Tod's e Luxottica. Ferragamo ha pubblicato ieri i conti sulle vendite di fine anno che hanno mostrato un rialzo del 17% a 1,153 miliardi di euro con un più 12% solo nel quarto trimestre del 2011, quindi le attese per il 2013 sono positive. Per quanto riguarda Autogrill, dopo innumerevoli indiscrezioni, la società questa mattina ha confermato di aver iniziato lo studio per la scissione delle attività di ristorazione da quelle di travel e duty free, e ST ha beneficiato del buon andamento del comparto tecnologico che in Europa ha guadagnato quasi il 2%, e ricordiamo che ieri la società ha pubblicato i conti 2012 e ha confermato l'uscita dalla joint venture con Ericsson, quindi ST Ericsson, che secondo gli analisti sarà positiva, quindi l'uscita di ST dalla joint venture sarà positiva ed è attesa entro il terzo trimestre di quest'anno. Due titoli minori. Allora, qui SEAT pagine gialle ormai vale 0,002 euro. Ha perso il 23% anche oggi. Praticamente è un passo dal fallimento. Sì, praticamente sì, nel senso che oggi l'agenzia di rating Standard & Poor's ha tagliato a selective default il giudizio su SEAT dopo che la società non ha pagato gli interessi semestrali di fine anno sul bond in scadenza nel 2017. Secondo proprio i criteri dell'agenzia di rating, il mancato pagamento della cedola semestrale equivale sostanzialmente a un default. Scusami, ti ho perso un secondo in collegamento sulla vicenda SEAT pagine gialle. C'è un altro titolo però che oggi ha fatto un andamento molto strano, in positivo però questa volta, mi riferisco a Mondo TV più 8,90%. Sì, Mondo TV ha beneficiato della notizia secondo cui il CDA ha dato l'ok alla procedura per la quotazione sul mercato AIM Italia, che ricordiamo è il listino per le piccole e medie imprese italiano, della controllata francese Mondo TV France. La diffusione delle azioni avverrà mediante l'assegnazione gratuita da parte di Mondo TV ai soci di azioni che rappresentano circa il 25% del capitale sociale della controllata francese, quindi gli azionisti hanno sostanzialmente premiato il titolo, che ha chiuso in forte rialzo. Livia Zancaner, grazie e buon fine settimana a te e a tutti i colleghi di Radio Cori sulle 24 ore. Grazie mille, buon fine settimana anche a voi. E adesso entriamo nel vivo di quello che purtroppo sta diventando da una settimana un appuntamento fisso di questo programma. Mi riferisco alla vicenda Monte dei Paschi, nel giorno in cui lo trovate su Sole 24 Ore, l'intervista del direttore Roberto Napolitano al presidente della Repubblica Napolitano, Giorgio, il quale ha difeso, il presidente della Repubblica, l'operato della Banca d'Italia e ha detto è inutile continuare ad accusare la Banca d'Italia. Tra l'altro, anche sottolineato Napolitano come dalla procura sia arrivato un richiamo brusco alla stampa di fronte alla pubblicazione di notizie dichiarate totalmente infondate e che ha portato la procura di Siena a ventilare provvedimenti per aggiotaggio e insider trading. Nel frattempo da Trani un sequestro, anche se marginale come quantità. Ci colleghiamo allora con la nostra Raffaella Calandra, che è appunto a Siena. Buonasera Raffaella. Buonasera Sebastiano, a te e ai nostri ascoltatori. Allora Raffaella, al di là dell'intervista col presidente Mancini che abbiamo già ascoltato e quindi diciamo la salterei, poi ci sono qui pro quo, insomma Mancini sarà oggetto poi dell'approfondimento successivo. Oggi le notizie più forti sono arrivate più che dalla procura di Siena, da Trani, mi sembra di capire. Sì, anche se c'è da dire che quello che sta svolgendo la Procura di Trani, almeno in questo momento, non sembra avere un esito immediato sul lavoro che è già avviato qui a Siena. Sicuramente la Procura di Trani ha, come tu accennavi, mandato la Guardia di Finanza in una filiale del Monte dei Paschi per sequestrare appunto una buona quota appunto legata ad un'inchiesta sui derivati, e allo stesso tempo la Procura di Trani ha sempre avviato una serie di accertamenti nei confronti di alcuni ispettori della Banca d'Italia che a loro dire nel corso dell'attività di controllo avrebbero omesso di sanzionare le condotte di MPS e Banco di Napoli ai danni della clientela. Questa è l'ipotesi di Trani, appunto, che coinvolge cinque diverse banche che sono MPS, BNL, Unicredit, Intesa e Credem. C'è da dire che questo è un filone appunto che vedremo dove porterà, mentre l'indagine centrale, questa che è qui a Siena su Monte dei Paschi, aspetta altre carte che arrivano da altre procure, che sono innanzitutto quella di Roma, che ha appunto aperto un'indagine per manipolazione del reato e per ostacolo agli organi di vigilanza, e acquisirà documentazione da Banca Italia e Consob, e poi aspetta, anzi ha già anche ricevuto da Napoli alcune atti che riguardano una inchiesta, l'inchiesta Finmeccanica, che aveva portato a una perquisizione a danno dell'ex presidente dello IOR Ettore Gotti Tedeschi, qui interrogato come persona informata sui fatti ieri, nella cui abitazione avevano trovato documenti riguardanti la famosa acquisto di Anton Veneta. Oggi qui sarebbe dovuta essere una nuova giornata di interrogatori, pare che questi invece è stata una giornata, diciamo così, di studio e di attesa di carte negli uffici giudiziari. Altri interrogatori ci saranno nella prossima settimana, e quando saranno terminati quelli dei testimoni cominceranno quelli degli indagati, a cominciare appunto dall'ex presidente della banca nonché dell'ABI Giuseppe Mussari e dai suoi collaboratori come Baldassarre, insomma gli indagati principali delle due inchieste già aperte in procura qui a Siena. Ma diciamo gli elementi di indagine sul Monte dei Paschi qui a Siena sono veramente tanti e potrebbero portare anche ad altri sviluppi. Ecco Raffaella, su questo volevo chiudere, perché tu chiaramente sei il nostro segugio nelle procure, in quella di Milano soprattutto, ma vorrei capire, fermo restando quello che si può dire, la sensazione era stata 3-4 giorni fa, ne abbiamo parlato in diretta, che vi fosse un'accelerazione nelle indagini, chiamiamola così perché non voglio citare altri elementi. La sensazione che tu hai ricevuto in questi giorni dalla Procura di Siena è questa, oppure che i tempi vadano un po' a dilatarsi perché c'è bisogno di verificare altri ruoli e altre operazioni oltre a quelle inizialmente emerse? Una accelerazione visibile, possiamo dire così, nel senso che a noi cronisti è visibile, c'è stata ieri nel momento in cui hanno acquisito agli atti delle deposizioni importanti come quella di Gotti Tedeschi e quella appunto della presidente Mancini. Questo vuol dire che appunto sono arrivati ad un passaggio dell'inchiesta che non è poi così tanto lontana anche ad una chiusura, perché dopo resterà appunto da interrogare gli indagati, e se il filone Anton Veneta è abbastanza tracciato, è abbastanza delineato, l'altro fascicolo, quello sui derivati, sta comunque procedendo in modo molto spedito, abbiamo appreso, quindi diciamo un'accelerazione per ora è più una definizione del quadro più che un'accelerazione, almeno al momento. Grazie, buon lavoro alla nostra Raffaella Calandra in collegamento da Siena. E di quello che sta capitando, di quello che si può dire di quello che sta capitando, ma anche del ruolo tra le fondazioni bancarie, ripeto, a me sentir dire il presidente Mancini, di cui ho il massimo rispetto, presidente della fondazione Monte dei Paschi di Siena, non ho parlato e la cosa è stata apprezzata, il silenzio è stato apprezzato, per non aver commentato negli ultimi giorni le vicende. Io così da giornalista avrei voluto che il presidente della fondazione, visto il rapporto che ha, avesse chiarito se quello che scrivevamo, se le accuse mosse anche alla fondazione di avere vincolato con la sua senesità tutti i piani futuri del Monte dei Paschi, di avere poi creato le precondizioni per un Monte dei Paschi che non riusciva a sposarsi con nessuno, per poi l'operazione Antonveneta, ecco, avrei voluto sapere se le condivideva. Ma tant'è, allora chiediamo aiuto agli uccellacci. Eh sì, aleggia sui colli senesi della Val d'Orcia, Chianti Senese. Professor Giulio Sapelli, buonasera. Come va, Barisoni? Ma questa volta è più difficile per lei, professore. Perché lei è stato dentro la Fondazione Monte dei Paschi. No. Barisoni, lei è impreciso come gran parte. Io sono stato l'ultimo nominato dal Ministero del Tesoro dell'Economia, perché che nominava a quei tempi, fino all'elezione del ministro Dini, quando fu eletto poi a Siena, allora si cambiò le regole e il presidente Montepaschi non fu più nominato dal ministro, ma nominato dagli enti locali, cioè dal comune. E io sono stato il commissario, cioè l'ultimo presidente della fondazione nominato dal ministero, e che ha fatto la riforma dello statuto e ha condotto. Io non partecipai neanche alle riunioni che diedero poi vita all'elezione del nuovo consiglio, quindi io sono proprio con la senesità, non c'ho nulla a che fare, a che vedere. Sono stato l'ultimo inviato dal centro, dal famigerato centralismo. L'ultimo prefetto in fondazione, diciamo. L'ultimo così. Prefetto, bravo. Ecco, è una cosa di cui mi onora, una qualifica che mi onora. Ecco, lei si è fatto un'idea, visto che è stato l'ultimo commissario mandato dal ministero prima che poi il presidente venisse nominato dal comune. Certo. C'erano già nel 2000... No, non solo dal comune. No, certo, dal comune, dal provincia. Ma la Curia, non dimentichiamo, io feci entrare la Curia nel consiglio d'amministrazione. Lei nel 2000-2001 aveva già avuto sentore, oppure a quel tempo la situazione di Monte dei Paschi era assolutamente tranquilla ed era quella di una banca gestita? No, per carità, allora non c'erano sentori, Monte dei Paschi era una banca sonnacchiosa, stabile, insediata nel territorio, che naturalmente suscitava polemiche, perché con il problema della privatizzazione, mi ricordo la polemica con uno dei miei grandi maestri, il professor Alberto Preghieri, che sosteneva che nonostante la privatizzazione dovesse prevalere lo statuto municipale e comunale del Monte Paschi, che risale, come lei sa, ad anni 1300, quindi casomai le polemiche erano de iure, con dei giuristi, con Fioretti. Naturalmente poi c'erano anche lotte sotterranee, che sicuramente Siena, come lei sa, dai tempi di Caterina di Siena, che scriveva pagine terribili sui Sì, però Caterina di Siena non faceva i derivati, professor Sapelli. Beh, no, non faceva i derivati perché era una santa, ecco. Ma allora poi abbia la cortesia, Barisoni. Allora, nel 2000 i derivati non erano ancora arrivati con così prepotente forza nelle alchimie finanziarie. Traffico, professor Sapelli, vorrei sapere una cosa. Lei si sarà fatto un'idea di quello che è successo, visto che ha conosciuto comunque, anche se in tempi in cui era ancora una banca, come le dice, sonnacchiosa, e così, di quello che è successo. Qua sono tre le ipotesi. Ipotesi A, la più semplice, la banda del 5%, i vertici del Monte che si mettono d'accordo, la procura indaga l'associazione a delinquere, iniziano un insieme di operazioni che la Banca d'Italia non riesce a vedere perché vengono nascoste così tanto che gli ispettori non le vedono. Ipotesi B, no, qui c'è qualcosa di più grosso, c'è sicuramente anche, ci sono dei vertici, direttore finanziario, Baldassarri, Vigni, Mussari, quant'altro, però c'è un sistema che non funzionava più, un sistema di copertura reciproca, diciamo, in cui entra anche la politica e il partito di riferimento a Siena, che da sempre è il PD. Terza ipotesi che è circolata, no, attenzione, qui dietro ci sono interessi ancora più alti e da più parti si è evocata la massoneria. Allora, professor Sapelli, la A, un gruppo, una banda, diciamo, un'associazione delinquere che operava nascondendo tutta la Banca d'Italia, la B, il ruolo del partito a Siena, la complicità con i soggetti locali, la C, qualcosa di più in alto, che includerebbe a questo punto anche le banche olandesi, ABN AMRO, Santander, cioè un mondo che è non solo sovraprovinciale, ma anche sovranazionale. Scusi Barisoni, ma io non sarei quell'uccellaccio che con così amabilità mi descrive se accettassi il suo giochino, ecco, diciamo così, perché uno, sono un uomo all'antica, quindi qui si tratta, stiamo parlando di un istituto che è una banca quotata, quindi io dichiarazioni sull'istituto di una banca quotata per il modestissimo ruolo che posso svolgere verso l'opinione pubblica non ne faccio. perché posso infliggere dei danni o dei vantaggi all'istituto medesimo. Due, in più c'è anche un'indagine della magistratura che dal punto di vista della sua operatività come ordine, col massimo rispetto, quindi non parlo. Tre, c'è anche la campagna elettorale, quindi io, che sono, come lei sa, volo sui cieli oltre le campagne elettorali, quindi nessuno sa come la penso elettoralmente, di queste tre cose non dico nulla, dico solo due cose. Uno, anche sulla base dell'esperienza, io sono stato presidente dell'audit committee con le banche, ho fatto l'audit committee in Eni e in Ferrovie, cioè. Vede, Banca d'Italia ha degli ispettori sempre molto capaci e intelligenti, però se non c'è una disponibilità alla collaborazione dalle strutture interne dell'istituto bancario che è sottoposto a operazioni di vigilanza, gli ispettori hanno molta difficoltà e spesso non trovano tutto quello che cercano. La vigilanza è un potere ispettivo diverso da quello coercitivo e compulsivo della magistratura e quindi non può agire con quella, se mi permette, violenza de iure che ha l'intervento della magistratura. Quindi se non c'è cooperazione è inutile prendersi con la Banca d'Italia, bene ha fatto il Presidente della Repubblica, vuol dire pensi a che punto è arrivato il Paese, che il Presidente della Repubblica deve dire una cosa simile, a che punto di selvatichezza e di selvaggia lotta siamo giunti in questo Paese. Il rispetto che si deve avere con la Banca d'Italia, questo non vuol dire che si deve polemizzare, io polemizzo con la Banca d'Italia perché penso che abbia delle idee sbagliate sulle banche cooperative, sono anni che polemizzo, ma la polemica non vuol dire accusare di mancanza di vigilanza, quindi qui siamo già fuori. Altra cosa, c'è un'analisi anche qui, insomma, che io devo dire a volte mi sono stupefatto davanti alla pochezza analitica di molti interlocutori, ma scusi, questa questione di Anton Venete, Abbiam Beambos, vengono fuori i partiti, il PD, ma, e qui vengo forse all'ultima busta che lei ha sollevato su, perché poi noi uccellacci giustamente vediamo le cose dall'alto, ma lei crede veramente che il cuore, ma questo storicamente dal 1700, dal tempo in cui gli olandesi occupavano l'Indonesia, della massoneria internazionale che ABM AMRO, presso la quale io ho un sovrano rispetto quando ha delle coloriture risorgimentali, patriottiche, come molta parte di questi circoli, crede veramente che la questione anche in Veneta sia una cosa che si decida sui confini di casa nostra? Quella partita lì è una partita che ha chiamato in causa altri istituti bancari, e dico solo questo, non italiani, che sono storicamente riferimento delle stesse tradizioni logge e grembiulini e riti esoterici iniziatici che lei ha citato prima, di cui il Duca di Kent in Inghilterra è un esponente. Quindi voglio dire, qui stiamo trasformando un'operazione che è un pezzo della campagna per la conquista dell'Italia in un gioco di pollaio per la campagna elettorale. Non so se sono stato chiaro. Sì, no, lei è stato chiaro, cioè, però questo non vuol dire negare che poi alcuni manager abbiano operato distraendo fondi o creando... Questo io non lo so se i manager hanno operato distraendo fondi. Però lei dice che l'intera operazione è Anton Venta su ABN AMRO e poi Santander... non è stata, diciamo, non aveva una regia solo italiana, mettiamola ma così. Ma certamente che non aveva una regia solo italiana, voglio dire, ABM AMRO venne in Italia con una precisa idea di dominare alcune banche in Italia, si scornò perché nel nostro paese non ci sono modelli di corporate governance simili a quelli del capitalismo anglosassone, trovò degli ostacoli e decise di uscirsene. E naturalmente uscendo ci ha lasciato alcuni regalini e utilizzando anche quelle che sono le propensioni acquisitive di alcune parti di questo nuovo management, io parlo da un punto di vista scientifico, capito? Che mi pagliano purtroppo, ahimè, vengono fuori da questi dati che caoticamente vengono fuori, ma il riferimento al partito X, al partito Y qui è un po' distorcente, qui si tratta di una, poi per carità, questo non vuol dire che alcuni esponenti di questi partiti appartengono a questo mondo, ma è una cosa che devo dire, qui bisogna, sì, io ho anche molti dubbi che questa verità la potrà mai stabilire la magistratura. Noi dovremmo avere una verità storica di questa vicenda, quindi la dovremmo affrontare, finito l'agone, perché di questa campagna elettorale che sta diventando, mi ricordo un editoriale di Luca Fontana sul Corriere bellissimo che diceva, ma insomma, speravamo tanto, era una discesa di monti, eccetera, eccetera, diciamo, e poi invece siamo di nuovo alle vecchie campagne elettorali, no? Dove ci si sbrana, non si discute del paese, non si discute dell'occupazione. Questa cosa del Monte Paschi sembra fatta apposta perché non si discuta dei problemi essenziali di questo paese. Quindi questo io sono, questo non vuol dire che io non abbia le mie idee sulle fondazioni bancarie. E quando è che ci dirà le sue idee, Sapelli? Penso che le fondazioni bancarie, come dissi in una intervista al Corriere del 2001, devono uscire dal capitale delle banche. Io proposi allora che uscissero dal capitale delle banche e che facessero un fondo per aiutare le imprese in difficoltà. 2001, invece di avere poteri di controllo sulle banche, che questo sì contraddice la legge Amato-Ciampi, giusto? Dovevano fare questo, lo dissi in tempi non sospetti, nel 2001, e di quell'idea continuo, ammesso e non concesso che è stato un bene farlo, io su questo ho molti dubbi, ma dato che ci sono, rispettino la legge, escono dal capitale delle banche. Deve essere molto difficile perché perderebbero un sacco di soldi, ma nel 2001 io dissi questo: uscite e coi patrimoni fate semmai un fondo tra tutte le fondazioni per aiutare le piccole e medie imprese. E quindi mi sembrava un'idea preveggente, giusta, non se la filò nessuno, poi abbiamo capito anche perché. Sapelli, voli via, va là che è meglio, e attento perché poi insomma. A non venire zavorato dai grembiuli, dai compassi. Metto comunque, il turbo, facciamo così. Salgo su alle reazioni avete. La saluto, Marizoni. Arrivederci, professor Sapelli. Spero di sopravvivere. Io spero, volsi così colà dove si può, ciò che si vuole, e più non dimandare. Sapelli, arrivederci. E magari ci dirà dopo le elezioni, però, che idea sarà fatta allora, visto che non ne vuole parlare durante la campagna elettorale. Da Sebastiano Barisoni un ringraziamento a Barbara Bianchi, Mauro Del Corno per, come ogni settimana, per l'assistenza in redazione, a Pietro La Corte per l'assistenza in regia. Un augurio a voi di buon fine settimana. Noi ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi.